Vabbè, magari se mettiamo un lineare, non si è mai puntato verso l'alto, magari ci sente, cosa ne sa? Si è puntato verso l'alto, sì, di sicuro, Comunque l'attrezzatura, una volta la moglie aveva accennato, dice se senti qualcuno avvisami, poi era uscito qualcuno che le interessava, no? Le apparecchiature, l'antenna, e dice ma adesso è in magazzino, tutto coperto, non posso andarci, no? Ma fai come vuoi, cosa vuol dire, tieniti, tanto più passa il tempo e peggio è, non sto prendendo un'idea. Intanto le apparecchiature, innanzitutto, i condensatori quando rimangono molto tempo fermi potrebbero partire del tutto e non valgono via nulla. Questa roba non è solo quella fine, oltre di un appassionato, uno che se la sa toccare e riparare, oppure non la può neanche vendere a tutti e comunque non vale più quello che voleva prima. Naturale, penso che ci aveva comunque delle apparecchiature ultime. Ultime, diciamo, un po', Mario era un po' così, un po' estroso, era una bravissima persona, diciamo, no? Si curava dei ponti, mi ricordo, l'R0 di Monterasu, lui se ne prendeva il carico, ogni tanto ci andava, riparava, e tutte queste belle cose, appassionati veramente, no? E sono quei vecchi radioamatori di una volta che adesso non ci sono. Prima io diciamo non posso manco definirmi radioamatore, diciamo, sono come potrei dire, un dilettante in merito a certi radioamatori conosciuti, infatti alcuni erano i veri e propri professionisti, altri no. Altri erano come, diciamo, facevano per pura passione, basta. Se tu riguardi la specifica, per esempio, le trasmissioni sulla banda cittadina, il tipo di autorizzazione che è, praticamente è una banda che è dedicata ad appassionati di radiocomunicazioni, che possono mettersi in contatto tra loro, ed è una banda nella quale si può parlare di sperimentazioni, insomma, in realtà è vero, perché poi alla fine sì, si fanno i discorsi eccetera, magari c'è una persona che va bene o a tutti, però inizia quello che problema sul microfono, guarda che deve essere la calza, la calza non serve a niente, elimina la quantità di un zio, metti quell'altro, facendo con l'alternanza, scopa l'antenna, poi alla fine sono questi discorsi. Perciò le persone in teoria che hanno una radio in mano sono degli appassionati che parlano a proposito di queste cose. Diciamo, se non si parlasse di questo diventa anche noiosa, diciamo, entrare in, come si chiama, diciamo che ci sono dei CB comunque sono molto preparati nel campo, diciamo anche nel campo delle trasmissioni sperimentali e così via, no? Io qua c'ho adesso, ma qui davanti me li avevo tutti segnati, il relatore degli anni, degli anni 95 circa, quando io avevo smesso, naturalmente c'è Salvucci, Salvucci Valdi S0SWW, poi c'è Vittori S0 Ani, non so, non mi ricordo, questi li avevo conosciuti, adesso non mi ricordo manco più la loro fisionomia. Poi c'è S0 DFB e Claudio, è quello che stavo dicendo poco fa, con nome di Sparviero nella CB, poi c'è S0 CUP Massimiliano, S0 YP W, S0 HB e Marco, questo mi sembra che l'ho sentito l'altra sera, non vorrei sbagliare. E c'ho tutti i radioattori di Sassari che erano attivi negli anni 90. Quelli che sono rimasti praticamente Sparviero, se non mi sbaglio, Walter Salvucci e così via. E allora, infatti io a S0 DSB, Claudio, volevo chiedere alcune cose sull'apparecchio 144 che ho qua davanti, appunto quali fonti sono attive, eventualmente già la incrocerò più tardi magari. E quello che più tardi rientra. Io ti devo lasciare perché c'è l'appuntamento del caffè che è slittato con mia madre, che è una di quelle cose che porto avanti per mantenerla tranquilla e stabile, per intenderci. me break caffè, me ne entro in quell'X. Se ma ci sentiamo dopo, già rientri, sì. Bracco. Aspetta un attimino solo. Ascolta, ricordami il tuo nominativo, non mi riferisco a Riccardino, ricordami il tuo nominativo in CB. Alfa. Sto dicendo a te, sto dicendo a quell'amico che stavo parlando con papà. Riccardino, lo so, basso, un momento incomprensibile, c'è un po' di QRM qua. Però finalmente arriva qualcosa, poco fa non arrivava niente, perciò ti capisco, qualcosa è migliorato, non lo so quanto, però è migliorato. Bracco, il mio nominativo è Fabio Master. Attenzione, dimmi, Fabio Master hai detto. Affermativo. Ok, vabbè, ci sentiamo un altro momento allora, dai. Adesso facciamo entrare Riccardino, Fabio Master, me lo scrivo subito perché mi dimentico le cose, mannaggia master. Ecco qua, vabbè, ci sentiamo, sto pian toccando il tastiero, non me ne dimentico, mannaggia. Ci sentiamo magari più tardi, dai, ciao. Quindi salutami di Cardino per favore, sentiamo dopo, dai. Sì, sì, in avanti di Cardino. Diciamo la cassetta si copia con me, parla un po' a lungo, va. Ho detto di parlare un po' più a lungo, stai copiando almeno. Sul Riccardino non ti copio, Grazzino sta sempre aggeggiando, mannaggia la maiella. Riccardino ci sei o chiudo? Adesso ti sento bene, non stavi lì a cambiare continuamente queste cavolo di antenne, adesso mi sei arrivato anche forte. L'antenna sta usando, adesso ti copio benissimo. Santiago di 6 circa Radio 5. Sample nuova hai preso o sempre la stessa? Ma così forte non ti avevo mai sentito io, devo essere sincero. Chi? Pino o Pino, non ho capito. Ho capito, sì. Mi dice che c'era Torralba prima di quello che c'è adesso, sì. Eravamo amici. Io ho capito, no. Ma ancora in servizio, Ho detto se è ancora in servizio o si è congedato. Ma poi che lo conosci, lo vedi per caso? Comunque se lo vedi salutiamelo, già mi conosce. Tanti saluti dal pittore Giovanni Seu, io c'ho la casa a Torralba. E c'avevo anche le antenne, a dire la verità, ce l'ho ancora, non so se funzioni. Non c'è una certa età. Tuo padre quanti anni c'ha? Quindi è giovane in paragone a me, dai, io ce n'ho 83, ti puoi immaginare. Io ce n'ho 83, tuo padre mi ha detto 53, così. Ah, 56, stai vigile così. Si è congedato giovane. Ah, mi ha detto lui. Salutamelo comunque. Guarda, non so se mi conosce. Io lavoravo in finanza prima, ero finanziere. Sì, a Sassari, ma mi sono congedato anni e anni fa. Anni, ma poi a vigile. Sarule. E facevo servizio a Sassari? Un po' di anni però. Tornateci in servizio, eh? E allora ho conosciuto, io mi sono congedato da molto tempo. A meno che aspetto un attimo. Diciamo che Brandino però non mi è nuovo, no? Perché forse nell'associazione che finanzieri mi sembra, non mi vorrei sbagliare, chi è tuo zio? No, ho detto è tuo zio sto Brandino. Rispondi, domanda. Rispondi subito quando gli fanno le domande. Io, ma io non mi sono sordo, ma lui le orecchie già ce le hai buone. È sciallo? Da due giorni però, caspita, mezzo secolo fa o più. Trovo ancora così. Punto, conosciuto 30 anni fa, li puoi immaginare, no, 30 anni fa minimo, l'ho conosciuto sì, vicino in campagna vostra, e adesso la sua campagna chi ce l'ha? Sì, lui lo so, sì, ma beh, ma il figlio però cosa fa? Appunto, già Meloni già lo conoscevo, diciamo, aspetta un attimino, però ce n'erano due di Meloni, porca miseria, forse uno si trova ancora perché ci avrà forse 78 anni, uno ce l'aveva, ma Meloni quello che è morto, quando è morto? Capito, già quello ho conosciuto, beh, naturale, non è l'altro Meloni che conosco, l'altro Meloni che conosco ci avrà qualche anno meno di me, e quindi Meloni, quello che mi stai dicendo tu, l'ho conosciuto appena io sono arrivato a Sassari, diciamo, poi si è congelato subito, anche se lavorava, non vorrei sbagliare, e poi lavorava con Salis, quelli del ferro mi sembra lavorava, quando si è congelato la finanza. Non sono una bellissima persona. La vita, la vita è una fregatura. Se io ho un nipote, se le dico di parlare a Barracchino mi ammazza, non ne frega nulla quello. Quello è appassionato soltanto a, come si chiama, questa tavola di smartphone, queste robe qua. È un ribelle, diciamo, mio nipote. Per queste robe non c'ha pazienza, manco lontanamente. Con quello ci siamo congelati questa sera. Lo conosco benissimo. Scusa un attimo, sta chiamando il telefono. Aspetta. Rimani in linea. Cardici, sei ancora? Ca. Riccardo ha mollato. E vabbè, ci sentiamo più tardi, ciao. Ecco, ecco. Hola, attenzione. Che allora, scusami, niente, volevo un controllo. Di radio o di Santiago? Scusami. Controllo di radio o di Santiago, di segnale? Ma adesso mi risulta che sto uscendo 5. Ah vabbè, forse sei poco pratico. Allora, il segnale tuo, c'è un indicatore, lo smitter che ti dà il segnale quanto sta arrivando. Il tuo segnale è 9+15, la radio a seconda della qualità ci sono da 1, 2, 3, 4, 5, quando la radio è perfetta si dice 5, tu hai la radio 5. Eia, però ti volevo precisare che io sono da molti anni che non sto modulando. Scusami se purtroppo ho perso un po' di esperienza. Chi sei? No, scusa, è nominativo, almeno nome ce l'hai. Sì, mi chiamavano come Mandarino. Ah vabbè, io non è che sia vecchio di frequenza, ci sono da poco, una quindicina d'anni, anche se sono sempre stato appassionato. Comunque il mio nome è Roberto, nominativo in CB quadrato. Ok, ben sentito, il tuo nome è, diciamo, di battesimo, se sei battezzato qual è invece? Beh, ci mancherebbe che non sono battezzato, Mario. Ok, ben sentito, in che zona moduli Mario? Comunque i 15 anni non sono pochi, sono abbastanza. E niente, sono in 0 Kesseler parte alta. No, sta arrivando bene. Che antenna stai utilizzando e che apparato, se lo vuoi dire naturalmente? No, non è un problema, l'antenna è obbligatorio averla, e poi c'ho un'antenna del cavolo. No, no, dico, che antenna hai, se lo vuoi dire? Ah, come antenna no, me non te lo so dire, però mi risulta che è un'antenna, diciamo, da dritti, zida. Ma è una gran plane o una verticale 5 ottavi, diciamo, quella un pochettino più grande? No, piccola, guarda, ce l'ho attaccata al balcone, alla finestra, insomma, ed è circa un metro. Ah, quindi è un'antenna piccolina. Cos'è? Una veicolare hai messo? Un'antenna di veicolare o qualche altro tipo, tipo una boomerang? No, no, probabilmente è un boomerang, non è antenna veicolare, è grossa, non so se la conosci. Sì, cioè più o meno. E dimmi una cosa, mentre il baracchino e il microfono cosa stai utilizzando? Niente, un baracchino normale. No, ti ascolto perfettamente, niente da dire. Ok, chi c'è in questo canale? Vediamo se c'è qualche donato, mi sembra ho sentito qualcuno. Avanti su 10. Chi sei? E dove sei tu? Stai uscendo alla grande, Riccardo. Ah, per quello che sta uscendo così bene. Radio bellissima, segnale 9+15. Infatti non ti ho mai sentito così forte. Cosa hai combinato? No, sta uscendo benissimo. Poi c'è in compagnia di Mario Mandarino e lui sta trasmettendo da zona di Via Rockefeller. Vediamo un po' se ti ha ascoltato. E Mario, hai ascoltato a Riccardo? Sì, sento, ma molto poco. Molto più niente che poco, dai. Mario non è molto favorevole, anche lui è una posizione un po' in alto verso su Filighedo, però non ha un'antenna, diciamo, performante, sta uscendo con un baracchino con microfono non amplificato. Comunque quali va bene, perché probabilmente siamo più appesi, c'è un'antenna un po' più grande, diciamo, della tua, forse è per quello che riesco a riceverlo. E tu Riccardo l'hai ascoltato a Mario Mandarino? No, oh, vabbè, meglio così, dai. Vediamo se c'è qualche durato su questo canale, canale 10, 27075, avanti chi vuole entrare. Scusami se ti interrompo, sono sempre io. E niente, volevo dire, in che zona sei tu? Io sono zona stadio, parte alta, diciamo, verso la secca, dai. Ho capito. Vabbè, ascolta, io adesso ti devo salutare perché penso che deve uscire. E niente, casomai se ci sei più tardi è possibile che ci sentiamo anche più tardi. Ti saluto. Sì, come un'ultima cosa, come mi ascolti di segnale con la tua antenna, diciamo, boomerang? Come segnale tu stai arrivando molto forte, mi arrivi qua, Radio è chiara naturalmente, visto che c'è il segnale. Guarda, mi arrivi molto chiaro e niente, mi segna 9. Ok, dai, va benissimo. Ok, ti saluto, dai, è un piacere averti sentito, anche se per breve tempo, eventualmente se ci coincide dopo ci risentiamo, dai. Adesso tengo un po' acceso e vediamo un pochettino. Ti rilancio Riccardo, se ti vuole salutare, avanti Riccardo. Ok, dai, facciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare. Solamente oggi non c'è nessuno, boh, hai sentito qualcuno tu Riccardo? Vabbè, Maria rientra dopo, dai. Già ne ha di tempo libero, il signor Giovanni, dai. Ok, tu stai combinando, come vai? Sei rientrato a casa, Ricca? Ehi, è passato tuo babbo stamattina, ha fatto vedere, io pensavo stessi parlando di quel baracchino, quello con la cornetta telefonica, quello è un pezzo raro, però ne vogliono un pochettino, diciamo, con quei soldi, infatti ho detto, meglio prendere qualcosa di più, diciamo, non dico di meglio, ma un pochettino più utilizzabile, dai, quello è bellino perché è particolare, quell'altro valvolare, quell'altro che ho visto il video, quello è veramente un bel apparecchio. Sì, però non dal vivo, in coso sì. È particolare, diciamo, anziché utilizzare il mic, quello lì schiacci il PTT dalla cornetta, cioè il pulsantino di trasmissione dalla cornetta, dai, è particolare. Allora, quelli lì, nelle macchine, diciamo, di un certo livello, parliamo dagli anni 50 in poi, c'era il radiotelefono, che non c'ha niente a che vedere con questa frequenza che utilizziamo noi, lavoravano sui 43 MHz o cose del genere, adesso mi ricordo, ed era come un telefono normale, duplex, non c'era bisogno di schiacciare il PTT, cioè parlavi e ascoltavi nello stesso tempo, duplex, diciamo, nel senso potevi parlare, è come un telefonino normale che tu parli e ascolti nello stesso tempo, era un radiotelefono. Telefoni, però non c'ha niente a che vedere, questi qua invece sono singola modulazione, nel senso tu puoi parlare tu, devi mollare e ascolti l'altro, in quel sistema lì invece è molto simile, infatti è detto bene, a quelli vecchi radiotelefoni che si usavano nelle macchine dei nobili, delle persone benestanti, dai. Simile a quelli che aveva la polizia negli anni 60, anni 70, la polizia utilizzava, no 70 no, diciamo fine anni 50 e anni 60 utilizzava proprio la cornetta telefonica per parlare duplex. Il microfono. Sì, già lo conosco, quello celeste, è un bel microfono, diciamo molto ricercato quello lì, te lo stava dicendo tuo babbo, vedete un po', sono sempre delle cose, se vi piacciono sono bene tenerle e anche utilizzarle, io non mi piacciono molto tenere questi da palmo i microfoni, infatti ne avrò una ventina e che ne utilizzo ce n'è uno solo, tutti gli altri sono tutti da tavolo. Batterie sono le batterie normalissime a 9 volt, in qualunque negozio le trovi, anche alla CBC, da Fusaro, in molti negozi di materiale elettrico, forse anche alla Bricome lo trovi, diciamo una batteria non è che ci sarà per il futuro, però già si trova facilmente. Ah, quello da 1,5, quello giusto, quello non ha 9 volt, adesso mi sto confondendo, ma già si trovano, da Fusaro le trovi, perché io ce l'ho le stesse batterie sul tester, e sono quelle tipo i torcioni piccoli, chiamiamole mezza torcia, dai. Ah, già si trova, diciamo, quelle sono un po' più difficili, perché quelle sono zinco carbone, non sono batterie come le altre al mercurio o al litio, diciamo, quelle nuova generazione, quelle sono ancora zinco carbone, sono delle batterie proprio, non accumulatori, sono proprio batterie. Ma dipende, non è detto. Allora io ho una batteria qua sull'ala 48, ce l'ho dal 2004, ho fatto il conto e non l'ho mai cambiata. La batteria nel tanner dura abbastanza, tipo durare 3-4 mesi, dipende dall'utilizzo. Mentre nell'altro l'M600, dopo un mese ce la butti, la batteria che consuma troppo. Ciao Robè. E beh, Nattarino Alfa 1, c'è anche Riccardino Alfa 21, no, Alfa 21 sei Nattarino, e me Nattarino, Riccardino. Quindi siete tutti e due Alfa 1, Alfa 1 e Alfa 21, ha visto? Più di te mi Natale, lui è 21, è già arrivato a 21 e tu sei ancora a 1. Sì, ma io sono piccolino, cosa ti posso fare? Piccolo e nero. Aspetta che avete parlato di cosa hai detto, Riccardo? Hai detto bene, Natale è un grande. Come ti sembra questa radio, Robè? Ma diciamo abbastanza chiara, buona, dai, va bene, cos'è questo? Di più qua? No, negativo, non sono riuscito a piazzarmelo. E infatti mi sono stufato, adesso ci metto tutto a posto. Domani se ne ho voglia lo faccio. bene, buonasera a tutti. Sei una schiaffa, Natalino. Sì, mi sono stufato, non riesco a trovare la radio. Ho imbarrato il microfono. Natalia, ma scusa un attimino, l'altro giorno non è riuscito a fare l'abbinamento, cioè avevi un microfono, cos'era? Non è meno portato l'abbinamento, che cos'è? No, lascia perdere. Io l'altro giorno ti ascoltavo bene, c'avevi due microfoni, uno era l'MB+4 e poi un altro, ti ho detto va bene, finalmente ti sento, quando ieri ho avanti. Sì, vabbè, va più che bene. Ok. No problem, Roberto. No, ti ascolto bene, Natalia, va benissimo, non posso dire niente. I primi giorni, ti ripeto, eri troppo basso, non eri tu, perché tu eri abituato a farti sentire. In questo caso, molte volte ci sono quelli magari di segnali più bassi di te, però ci avevano amplificato, ti schiacciavano, ti sovramodulavano. In questo caso almeno riesci un po' a farti sentire bene. Sì, infatti. Ma cosa vuoi che ti dica? Cosa stavi dicendo, Marco? Non riesco a trovare il filo della radio, capito? E Natali, persino io ero riuscito a trovarlo, che non sono molto dedito, no? Tanto mi, l'impedenza è un'alta impedenza, per forza, non è una capsula 500 ohm, c'è tutto il circuito, eccetera. Vabbè, dai, ci riprovi quando sei più. Vuol dire che oggi ero un po' stanco, quando sei più rilassato ci riesci. Robè, dai, ti rilancio, io sto cucinando, sto per scolare i tortellini, dai, vi ascolto. Tortellini, monaresi, come sono? Di prosciutto? No, esattamente sono cappelletti con carne e anziché il sugo in rosso la panna. Ah vabbè, dai, ci vanno bene lo stesso, i tortellini già mi piacciono, dai. Ok, vai Riccardo, riprenditela tu. No, è Marco Condor, è il Condor Pasa. Marco è da un'altra parte, ma più o meno vicino, in linea d'aria sono abbastanza vicini con Bracco. Chi ti arriva più forte, Marco o Bracco? Marco è Monello, quando lui attacca le cose potenti fa uscire le scintille dalle antenne, è vero Natalino? Allora? Peggio di cosa? Di Natalino, che sono quelli bravi bravi e poi anche loro tirano la scoccata. Io invece sono piccolo e nero, sempre con la potenza lì, limitata e buh. Poi aspetta Riccardino quando si piazza l'antenna Natalino, che c'ha una bella antenna in preventivo, e farà anche lui schicchiare un po' di gente. Lui Natalino addirittura è più su di te come altezza, per cui magari non è proprio, però farà un po' di coso, di rumore quando attacca. È più in basso di me lui, anche essendo più su, capito? Sì, ma dico, è in alto come posizione, nel senso, c'ha una bella posizione, se lui riesce a mettere l'antenna con la manto, ma piazzata su quel palo di 6 metri, già si fa sentire, vedi che la musica cambia. Già. Vedo bene, sarebbe strano se non cambiasse. No, lo so, qua arriva già 9+10 così, con la Grand Play piccolina, e figurati quando mette un cavo buono, perché il cavo secondo me influisce, te l'ho detto anche l'altro giorno, Riccardi, mi sono dimenticato di dirle a tuo padre, vabbè dai lo chiamo eventualmente, gli devo dire delle cose a riguardo di un cavo, e mette un cavo buono, grosso, e... ma avvicinate tuo babbo. Allora, di quelli grossi l'RCG8 dopo l'RG58 è il peggiore, cioè se facciamo ordine di grandezza si parte RG58 a salire, poi c'è l'RG8 è il più scadente di quelli cavi, cosiddetti cavi grossi, poi c'è 213, 213.000, la cacciente, a salire fino ad arrivare i cavi professionali. C'è la possibilità, se mi ascolti Sergio, ci sei amico? Allora, siccome c'è una persona, ho parlato con una persona proprio ieri di cavi, e c'ha del 213, ne ha, quanti metri te ne occorrono a te? Allora lui ce ne ha diverse mattasse, ce ne ha 18 metri, 16 metri, mi sembra 25 metri, o 19 metri, non lo so, diciamo intorno ai 20 metri, se sei intorno ai 20 metri ce li ha, e poi ce ne ha una mi sembra 25 metri, c'ha tre mattasse diverse, una la devo prendere io, quella 18, poi eventualmente ce ne ha altre due, se te ne occorre, però calcola bene l'altezza dell'antenna, cioè verifica anche, tu c'hai quanti metri di palo, 6 metri di palo, più devi fare la calata e arrivare al punto di coso, di trasmissione, tieniti qualche metro in più, magari un paio di metri in più, quanto, così in modo, o cerca di prendere più corto il cavo, e poi non si possono fare più niente. No, queste sono le grandi fesserie che ci dicono, il cavo è sempre a 50 ohm, se ne è un metro o 100 metri è sempre 50 ohm, c'è da dire che con la lunghezza, aumentando la lunghezza aumenta la resistenza, per cui perde di coso, c'ha una perdita il cavo, ma stiamo parlando di tratte di oltre 30-40 metri, diciamo dai 40-50 metri in su cambia la resistenza, aumenta la resistenza e poi aumenta con la frequenza, ma su queste bande sulla 27 non ti preoccupare, non ci sono problemi, certo se trasmetti su frequenze molto alte c'è una perdita abbastanza rilevante, ma su 100 metri fai conto, se c'hai 100 watt mi sembra che ne perdi 7-8 watt, non stiamo parlando di cose molto limitate, per cui se c'hai 20 metri di coso la perdita sarà 0,3 dB, quanto perdi 2 watt se ne perdi pure. Non ho capito, scusa, la guardia che cosa? Allora, ti hai presente l'RG58, il PL c'è il riduttore per entrare giusto a misura, devi utilizzarlo senza il riduttore, il PL, la differenza dal 200, dall'RG8 l'RG213 è prima di tutto l'isolamento, che c'è una guaina esterna un pochettino, diciamo un po' più, soprattutto se prendi quello 1000 è un po' più grossa, poi l'isolante interno è un po' più robusto e soprattutto la calza che può essere nel 213U è stagnata, è la parte centrale del cavo è intrecciato, anziché essere un cavo unico come l'RG8, l'RG8 c'ha solo un filo di rame, mentre il 213 ce l'ha intrecciato, diciamo un cavo di conducibilità superiore, una resistenza inferiore, per cui c'è una perdita inferiore rispetto all'RG8, e io ti consiglio l'RG213, tanto i prezzi siamo lì, ti può cambiare qualcosa, questa persona se lo devi prendere, a me me lo prende e me lo dà meno della metà di quanto costa nel mercato, perché io sono andato alla GBC e mi ha fatto un prezzo, questa persona me lo dà meno della metà di quanto costa di mercato, che tra l'altro non ce l'aveva neanche Tonino. Se hai presente l'RG58 da Tonino, quello U, quello migliore, stagnato, quello lì te lo dà 1 euro al metro e questo ce lo dà un po' di più e ci dà un 213. Ok, così lo chiamo, tu calcolate esattamente le misure, io a me 18 metri già mi bastano, c'avevo già una mattassa, per cui non vado neanche a perdere tempo, ce l'ho da un buon prezzo, dai. Registrato, avanti sei. Ehi, avanti Gianni, che siamo io, Natalino, Riccardino, in questo caso Sergio che ha preso il mic e basta, c'era un certo Mario Mandarino che non conosco che però è andato via e poi non so se ci sia qualche un altro, prenditi il mic Gianni e farai girare. Allora, ciao a tutti cordialmente, ciao Natalino, ciao Sergio, Riccardino e tutti gli amici che ci sono, dai Roberto. Ti volevo dire Roberto, non è meglio che mi fai prendere 155. Già lo so che è meglio già, però ti presente che costa tre volte tanto, questa persona ce lo dà a un prezzo molto ma molto basso, l'H100 è sicuramente un cavo superiore, naturalmente se fai delle lunghe tratte, se fai una tratta di 20 metri la differenza è nulla, se fai 100 metri e se metti un po' più di potenza te ne accorgi, ma stiamo parlando di sottigliezze già, devi fare conduzioni molto lunghe per avere, per sentire la differenza, anche l'RG213 se prendi il 1000 è un buon cavo. No, anche per la morbidezza, quello l'H100 è molto più morbido come cavo. Sì, no, no, sicuramente è un cavo superiore, assolutamente, è molto migliore a livello di malleabilità e di coso, con decibilità c'ha meno perdita, però uno, quanto se tu, è come che ti vuoi comprare, va a 500 e poi ti vuoi comprare un'altra macchina, se uno si accontenta, quello va più che bene, molto meglio del 1058, l'H100 lo pagherai almeno 5,50 euro, 6 euro al metro, l'RG 213 lo paghi a 3,50 euro, se c'hai 50 metri la differenza non è poca, e poi alla fine se c'hai 20 metri di coso di tratta, ma dammi un vaso di qua, tanto sono buoni tutti e due a livello di, addirittura posso dire una cosa, il 213 rispetto all'H100 come guaina esterna e resistenza, se prendi il 1000 è anche superiore, c'ha solo il vantaggio, quello lì è un pochettino, rende un po' di più, è un po' più flessibile l'H100, però a livello di, se ci schiacci sopra la roba, gli fai meno danno al 213. Vabbè, ma esiste davvero l'H100 o stai confondendo con l'H1000? No, H100, cioè H100, H150, ci sono anche altri tipi di cavi, parliamo l'H100 è quello confrontabile al 213, poi cavi, ne ho scoperto uno nuovo ieri, l'RG59 me l'ha portato, che non conoscevo, 1000, che è azzurro, che viene utilizzato per trasmissioni di segnali video o, come si chiama, bassa frequenza, e assolutamente non va bene in alta frequenza, perché c'è una perdita enorme, e anziché utilizzare rame usa materiali ferrosi, sono rimasto a bocca aperta, ho letto le caratteristiche, insomma me ne hanno dato 28 metri, me ne hanno regalato domenica, era quel famoso cavo militare, invece è militare, però viene utilizzato per sistemi di controllo, videosorveglianza, eccetera eccetera, un bellissimo cavo, io pensavo andasse bene a 75 ohm, andasse bene per la TV, ho detto me lo tengo, magari se si lesiona il cavo che c'ho della TV di casa, assolutamente sconsigliato, non va assolutamente bene, c'è una perdita enorme, va solo bene per bassa frequenza, o per segnali TV quando devi collegare telecamere a circuito chiuso eccetera. Ok, scusate, il monopolio, avanti di nuovo, ma come si chiama? Gianni. Facciamo girare per Nattalino e poi... ciao Marco, precedito anche a te, dai. Diciamo che, vabbè, io sto parlando e c'ho le RG58, mi è sempre andato benissimo, ma non bene, benissimo. L'altro che avevo dopo 15 anni l'ho tolto, l'ho regalato a Luca, per se non usa lui, guarda, perché era buono, non c'aveva una, quando l'ho tolto non si era mai seccato né nulla. Allora Gianni, l'RG58 è un ottimo cavo, niente da dire, però naturalmente dipende in che condizioni d'uso lo tieni, se c'è un breve tratto va bene anche l'RG58, però quando c'è un terrazzo, nel senso come ce l'ho io, dove c'è catrame sopra, ci sbattono sopra roba, basta una lesione, un coso, il caldo, il freddo, quello U diciamo è un po' migliore di quello normale, però si fa una piccola lesione, una piccola cosa e inizia a perdere un bel, non poco, un bel, ti si incolla il catrame, eccetera eccetera, quell'altro invece è un pochettino, c'ha una robustezza e poi più silenzioso come coso, meno interferenze prendi con il 213, sono due cose diverse, dai, la conducibilità è molto migliore del 213, anche l'RG8, più sali di spessore, tieni presente, più aumenti il diametro del conduttore e diminuisce la cosa, la resistenza, per cui c'hai solo dei vantaggi, poi se vedi il Ceflex, quello per alte potenze che usano in altri tipi di cose, ti metti le mani in testa, cacchio, sarà 3-4 centimetri di 3, fai 4-5 centimetri di diametro con la parte centrale, la devi tagliare con la tronchesa, se no non ve la vuoi tagliare. Lo so perché è grosso. Si chiede a Claudio, il mio vola, invece che andare in terra vola, io praticamente dall'antenna ho messo un tirante, ho fatto scendere il cavo tutto sul tirante, l'ho legato sul tirante con le fascette e l'ho fatto andare sì da giù senza toccare in terra, hai capito? E ci sono dei metodi per evitare le cose, capito? Il mio tetto è in catrame, però qui c'è la ghiaia sopra, c'è catrame e ghiaia sopra, di modo che non voli il catrame, capito? Hanno messo la ghiaia, infatti non si è mosso di nulla. Scusa, mi sono allontanato un attimino, ho sentito di ghiaia, cos'è? Guaina adesiata allora? Ah, praticamente il mio tetto è fatto di catrame e la guaina è la guaina là, vabbè, la ghiaia sopra, dai. No, ti stavo spiegando come io ho fatto scendere il cavo dall'antenna, ho messo un tirante in più e in questo tirante gli ho fatto passare tutto il cavo sino a scendere giù, è legato sino al pezzo dove scende, non tocca in terra per niente, è proprio in alto. Sì, no, sicuramente ha fatto un bel lavoro, però diciamo sicuramente un cavo più grosso non gli fa male. Io per le antenne e addirittura l'ho messo inguainato tutto il cavo, infilato dentro le croci con le corrugato antimartello, quello in plastica duro duro, ci ho infilato tutto di lì dentro, sigillato in modo che i cavi non prendano nessuna come si chiama, interferenza da niente, dal caldo, dal freddo. Ho infilato tutto di dentro perché passano diversi cavi, c'è l'alimentazione cavo d'antenna, poi c'è l'alimentazione del motore eccetera, i polarizzatori, ed è tutto inguainato dentro. Poi dopo ci sono le curve che devo superare il terrazzo, diciamo il parapetto, di lì piegato bene in modo che non ci siano curve troppo ampie, non ci sono nudi, tu lo metti, ci puoi passare col trattore sopra e non li vai in usa. Sì, ma io ti dico, in 15 anni hanno preso tutti gli tempi dei miei cavi. In 15 anni ti sto dicendo che non si è rovinato nulla. Chiedi a Luca come glielo ho dato, l'abbiamo tagliato apposta per vedere se era rovinato. È normale, come quando lo compri, no? Non si è rovinato nulla. Ho avuto fortuna io, non lo so, ma io ho avuto sempre il RG58, infatti anche a casa di mamma quando ero un ragazzo che c'avevo la Grand Plane e poi ho avuto anche la Mantova lì e ho sempre usato il RG58, altri capi non ne ho mai usato. È sempre andato bene, dai. Comunque, io sto parlando, ho detto, perché ho l'RG58, però l'HP1000 e anche l'H155 è molto buono. Assolutamente, no. Io l'RG58 ce l'ho anch'io, lo uso per la multibanda, cacchio, ci sono 5 cavi che scendono per le altre antenne, pure uso anche io l'RG58, assolutamente niente da criticare, però quando inizi a andare... Vabbè dai, facciamo girare per Riccardo oppure per il padre, dai, avanti. Sì, a me sì. Prova. Sei un 9 scarso, però ti ascolto bene. Ti ascoltavo bene anche a casa di tua nonna, perché come tu sai siamo vicini a casa di tua nonna, quindi ti ascoltavo bene. Va bene, dai. E quando la piazzate? Questa te l'ha arrivata a te. I 3 giorni ci mette, dai, che arriva, non c'è problema per quello. Andà bene, Riccardi, speriamo bene, dai, incrociamo le dita, speriamo che questa sia la volta buona, che ti sentano tutti bene. Poi magari quella piccolina te la metti da tua nonna, sempre che voglia. Ho detto la mini Grand Prix, magari te la metti da nonna. Queste nonne hanno sempre paura di tutto. Vabbè, dai, facciamo girare per Natalino. Avanti, Natalino. Eia, sono qui. Gira, mi tocca ad aprire questo microfono. Perché? Perché non trovo il filo della radio. Lo piazzavo facilmente in tutte le radio, ma non ci sono riuscito. Ma quello da tavola? Sì, quello di tavola, dalla lì se te lo fa lui in piedi l'attacco, se non ce la fai. Infatti lo vado avanti, se lo porti lì se te lo fa 5 minuti. Ma se io li ho sempre piazzati. Cazzo. Col setter segna tutto, ho trovato la portante che è già piazzata, la portante, la radio non è. Sempre mattana ti devi dare su tu. Sì, ma questo, bisogna vedere se funziona bene. Ma è quello nuovo? No, quello vecchio. Ah, te l'ha formato? Eia. Non so che dire. Cosa ha detto? Che non ci aveva nulla, che cosa? Un transistor c'aveva, me l'ha sostituito, Però la radio non esce, bisogna vedere cosa me l'ha sorteggiata. Si vede la gamba sulla cosa che mi ha già tirata. Ahimè, c'hai una capsula bruttissima, non è la capsula di quel microfono. Cosa? Fabri? Appena stavo mangiando, scusate. Allora, il microfono, c'era un'aggiunzione di un transistor partita, quindi l'ho cambiato. C'è un BC247, il solito che trovi, anzi un circuito anche che stavo costruendo, perché ho notato che avevo preso qualcuno e stavo ricostruendo con quello un preamplificatore. E il classico, il tutto adesso funziona bene, ma c'è attaccato una capsula che non serve a niente, il microfono non lo fa, non l'amplificazione o la scatola, perché la scatola è un pezzo di ferro e il circuito è un transistor da 50 centesimi, e un diodo, quattro resistenze ed è tutto lì, non c'è altro. Quello che lo fa il valore è la capsula, capito? Di quel microfono quello che costa è la capsula. Tu gli hai messo una capsula di quelle, non so che capsula è, ne ho tante di quelle, le ho sempre provate, non sono mai andate bene. Trovati la capsula originale. Vabbè, cosa vuoi ti dici? Fabri. Non riesco a trovare il filo della radio, In che senso? Io mi ricordo che ci va bene. Ci va bene sì, quando era attaccato a quell'altro omologato ci va bene. Non sono riuscito a piazzarlo, Fabri, perché non trovo la radio. Ho trovato la portante ma la radio nisba. Aspetta che te lo dico io, allora, il tuo collegamento è come un Mintran, io per quello, per evitare casini, perché poi fate visto le saldature come le fate, ho fatto io quella prolunga, tu ci vi a 4, tu devi mantenere quella prolunga, da quel 4 fu lì, che è un collegamento Mintran, tu vedevi che l'1 è il microfono, il 3 è l'RX, il 2 è la massa, e il 4 è quello che manda in TX. Capito? Se tu tenevi quello, qualsiasi microfono, bastano invertire due fili e avevi la prolunga, che era fatta anche bene quella prolunga, invece l'hai smontata, ma me la devo rifare quella lì, non ho quel problema. Comunque, quel microfono che ti ho dato io, quel tuo riparato, è cablato per i Midland, 18, 34, 44, 48, 68, comunque tutti i Midland. La tua, che adesso io non mi ricordo, adesso aspetta guardo se lo trovo qua. Ma questo qui c'ha i collegamenti al rovescio, capito? Infatti la portante l'ho trovata e la radio è che non esce. Quattro fili dove lo stai piazzando? Cosa già? Il microfono dove lo stai piazzando, quanti ne ha di entrate? 4? L'ho omologato e non ti preoccupare già. Qua solo diverso dal miso anche c'ha gli attacchi al rovescio. Invece dici che l'attacco al rovescio come va, non funziona? Non funziona, che cosa vuoi ti dica? E allora non ha solo gli attacchi al rovescio, sarà da invertire qualche filo. No, 3 fili solo devi attaccare, capito? È un collegamento particolare questo. Devi mettere la portante e la radio. No, aspetta, devi dare anche l'RX alla radio. Invece io ti ho fatto uno schema, lo sto cercando, perché sono uscito di testa, perché lì hai tutti i cavi, perché hai due masse in quella radio. Trovare, c'è due masse, è una massa, ma c'è quella del microfono, poi ci sono i sali, scendi, tasti. Non vorrei sbagliare. E quello spinotto, la 7 è la massa, quindi nel numero 7 devi collegare il 4 di quel microfono, il 2 di quel microfono che ti ho dato io, l'1 lo devi collegare, non mi ritrovo lo schema però di quella lì, se l'ho fatto, è quello scritto da qualche parte. E tutti di me, Fabri, già lo trovo, e oggi ero stanco. Tutto a fianco, Fabri, sono tutto a posto, no? Già ci riesco a piazzarlo, ne ho piazzato di microfono. Vabbè, comunque, considera che tu devi due fili lì, allora tu praticamente fai, guarda, un consiglio, magari anche per chi sta ascoltando, prendi il microfono, prendi un tester, ok? ci metti i puntali nel 4, in uno dei fili, e inizi a vedere quando trovi continuità. Quando trovi continuità, quei due scavi sono quelli delle RX della radio, e quella che tu gli praticamente colleghi, che uno è la mascia e l'altro è l'RX. Tu, una volta che colleghi quello, tu praticamente hai l'RX della radio, la radio inizia a ricevere, perché sono fatti così questi barattini. Poi prendi i puntali e inizi a girare finché non trovi il... quando tu schiacci la portante, praticamente vedrai che non hai più continuità su quei cavi, ma devi trovare continuità, e quello è il fix, quello che ti rimane è il microfono. E cappa, e ho fatto proprio così, perché li ho sempre collegati così, col teste. Sono rientrato io. Ciao Fabri, ben sentito. Ciao a te. No, io mi stavo cercando un... questa è la cosa più semplice da fare quando devi collegare un microfono, sono esci di testa, hai scanate e scanate, così ti trovi tutte le cose che ti servono. Poi se tu guardi come era collegato quel che ho fatto lì, lì ci sono i quattro fili come erano collegati, da lì ci sono, lo vedi, no? Li ricollegavi come erano. Va bene, se ti serve sono qua, sto cercando uno schema che devo fare una modifica, una cosa mia. Cosa volevo dire? Già te lo spiego magari per telefono la situazione, perché così non lo capisci. Va bene, allora, e c'è il progetto, no, già quello lì abbandonato lì, ho fatto i frontalini, mi sto aspettando tutti questi, i frontalini illuminati, i led bicolore, sto aspettando un po' di roba, ancora no, ma no, sto lavorando su, non sono riuscito a far andare un'interfaccia sul 5000 digitale, ho sentito in assistenza e sembrava che ci siano degli errori sul manuale di servizio della radio, proprio degli errori. Adesso mi sto scaricando altre schemi di interfacce che vende proprio per Raiesu, per vedere se corrispondono uno con l'altro, e lui mi ha detto che io qui ho qualcosa di strano, magari hanno sbagliato proprio i manuali, capita. Va bene, proseguo. Vabbè, che microfono sta utilizzando? MC60. Ah, bella, stai uscendo alla grande. Le corde vocali sono di Fabrizio. Guarda, io ero fuori adesso, nell'altra stanza, però non sentivo, non riuscivo a capire se stava parlando, ero convinto fosse entrato Claudio. Assomiglia un po' anche a quella di Claudio, la modulazione. Ma quelle sono le corde vocali, guarda, io credo che io lo stesso lo faccio girare bene il modulatore, anche Marco Keb lo fa girare bene il modulatore. Lui c'ha la voce da gallinaccio, dice Walter, quindi la fa girare bene. Claudio è quello che lo spinge meglio. Vabbè, ma Marco già c'ha un sistema di trasmissione di bassa frequenza, parliamo di microfono, non parlo di trasmissione, che cura a modo particolare, infatti mi pare il nominativo suo, pseudo nominativo è voi, sì, proprio per la cura che ci mette nella modulazione, proprio con tutti i filtri e tutti i controlli possibili e immaginabili. Sì, ma con le radio di oggi già si riesce, prima adesso così, si riesce tranquillamente a lavorare, c'hanno tutto, c'hanno dei parametri interni, di tutto gli puoi fare, poi metti un microfono da studio e fai quello che vuoi, non è quello il problema è che se non c'hai, dipende, il modulatore lo devi spingere, ci sono alcune frequenze che lo fanno partire, o ce l'hai o non ce l'hai, quelle cose lì per esempio te l'ho detto, lui ce li ha, io bene o male, ma senti Walter, non riesce a far andare una radio, Claudio forse è quello che riesce a spingerle meglio, è proprio una questione di tonalità, ne sento anche altri, io ho fatto così, più o meno quelli che in genere senti la radio bella croccante, perché se tu alcune persone le senti anche con radiette del cacchio, con microfoni del cavo, senti la radio e le radio, capito? E senti altri che iniziano a mettere i microfoni, contro microfoni, le stesse radio, e dici ma questa è un'altra radio, purtroppo, e si nasce. Sì, come cantante che ha belle colore vocali, ti do pienamente ragione. Ok, c'era ancora, adesso mi sono notato qualche minuto perché era al telefono, c'era anche il Riccardino, vediamo se c'è ancora e se lo ascolti Fabri. Avanti Riccardo. Sì Riccardo, ti sento benissimo, oggi ti ascolto benissimo, il segnale è sempre quello, però la radio è perfetta, oggi sei comprensibilissima, le voci sono un po' così, ma devi riuscire a metterti un'antenna come si deve, capito? Vuoi regalare un'antenna come si deve, la monti sul tetto con un bel paletto da 2-3 metri, poi ci metti un paio di metri, basta, anche un metro e mezzo fa esagerare, ci metti una bella 5 ottavi e sei a posto, non ci metti, guarda, nemmeno tiranti, due belle staffe, ci metti un bel palo da un pollice e mezzo, da un metro e mezzo, prendi un palo da 3 metri, un metro e mezzo sul tetto, un metro e mezzo lo ancori al muro dove è, e sei a posto, senza tirante e senza niente. Magari. Bene, male, quando arriva la voglio sentire, dai. Riprendi Robert, passo qua in ascolto che proseguo. Ok Fabrizio. No, c'era qualcuno che ha parlato sopra di te. Chi è? Avanti. Ha parlato direttamente normale. La verità si credo. Magari. Che è inconfondibile il segnale, amico. A parte Fabrizio, vabbè, che Fabrizio è un po' più lontano, che arriva a 9.50, poi ci sei tu, che arrivi a 9.55, Bracco e Claudio 9.60. Ormai non mi fuggi più tu, Antonè. C'è anche, oltre che Fabrizio, che c'è un Rex, Natalino, Doppio Rum e Riccardino. Poi non credo che ce ne siano altri perché mi sono allontanato. Avanti, Antonello, per poi fare girare. D'accordo, non c'è problema, facciamo provare gli altri. A 1-1 senza spingere, diciamo a quello. Ricordati che ci sono anch'io, Fabrizio. Se vedi con il 4000. Quando le voglio chiamami, non c'è problema. Sono tutto vestito e metto nudo. Ehi, però non mi parlare più sopra, perché se no la prossima volta io sino a 2,5 watt riesco a spingere. Non ti ho parlato sopra. Ho detto tutto. Tutto quello che hai detto tu, stai tranquillo, non ti ho parlato sopra, quello poco ma sicuro. Vabbè, non penso di più, però 2,5 watt resta a spingerli. Non male. Per 1000 poi bisogna moltiplicare più per il guadagno dell'antenna, alla fine già si fa sentire Fabrizio, vivi un Fabrizio. Che non è mai usato qua, io ho sempre fatto la brava. Una volta ha fatto male, mi ricordo, ha fatto male a qualcuno, dai, non diciamo chi, dai, va bene, dai, non si fanno mai nomi, comunque le prove si fanno ogni tanto. Anche l'altro giorno il carissimo Walter ha fatto delle belle prove, si è fatto sentire anche lui qua, considerando dove era, segnali spaventosi, dai. Ok, vai Doppio Rum. Eia, segnali, non ne avevo mai visti segnali così grossi da quelle distanze. Vabbè, il problema di base sai cos'è? La radio. Il segnale è quello che vuoi, ma la radio è strana. Ogni volta che entra è strano il radio. Questa volta non era neanche strano il radio perché era equalizzato. Già stava andando bene, infatti gli abbiamo fatto tutti i complimenti. La cosa più bella è che quando ha attaccato non modificava la modulazione, era sempre quella e pulita. Stava spingendo tantissimo e ti posso dire la radio era bella. Non era la solita varia in AM qua in 27 che molte volte la sentivi un po' strana, un po' chiusa, dai, perché probabilmente la sua voce è un po' così, non è spinge come quella di altri. Però ti posso dire, equalizzata stava andando alla grande, infatti tutti gli hanno fatto i complimenti. E meno male, di solito usciva tutto strano. Adesso, come ha detto Fabrizio, utilizzando questi apparati nuovi, entri sull'equalizzatore che c'hanno interno, parametrico, modificare, ti puoi fare anche la voce di un occoso castrato, se vuoi, Antonè. Ho detto quello, e che Walter in pratica c'ha un sacco di apparecchi con la genere, purtroppo la modulazione non sa cosa ti posso dire. Bisogna interpretarla, cosa del genere, regolarla, eccetera, eccetera, timbrica, eccetera, capito? Tu dici, uscire bene, solo quella, però come si dice, la verità esce forte, eccetera, eccetera, solo timbrica e cose così. Ecco. avanti e avanti. Ciao Roberto e ciao Alessio, lo so che c'è, ho appena acceso. Ciao Massimiliano, ci sono io, c'è la Fabrizio in Corrix, Antonello, doppio rum, sono andato via, Riccardino e poi chi c'è? Ah, Natalino, scusate, ogni volta mi dimentico di Natalino, avanti Natalino, dai che eri un po' in parcheggio. Ciao Massimiliano. Pappa, ciao, saluto tutta la ruota, dai. Avanti Riccardi. Mi serve un'info su un arringo, non so chi me lo può dare. Su che cosa? Su un'antenna arringo. Mi serve un'info. Piazzata la spirale, no? Su quelle due fascettine che ha. Poi c'ha questo filetto, questo filo che va collegato alla spirale.